nasconde in sé. È l'uomo per me, è sicuro di sé. Ancora per me, per l'uomo, per me, per questo trovo in lui.